Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da quando a casa mia abbiamo il Facebook, sia io che mia moglie, io trovo i messaggini di mia moglie tipo stendi i panni, vai a fare la spesa, eccetera, eccetera, nei messaggi privati che ci scambiamo tra di noi. Avevo detto che mi sarei iscritta a Facebook per venirti a trovare e non ci sono riuscita perché il mio tempo davanti al computer chiaramente mi si è bruciato il sugo e i bambini mi hanno fatto una bella ramanzina perché dicono che perdo tempo davanti al computer invece di pensare alla cena. Facebook offre l'illusione di migliorare la vita reale. Vedo profili di persone che conosco molto bene, che hanno una vita reale veramente molto piatta. Abbiamo parlato tante volte di Facebook, intanto mi chiedo come mai. Io cambio orario, ma lo spot della prostata mi segue sempre, come un cane segue il suo padrone scodinzolante, ma l'hanno individuato come il testimonial perfetto. No, io questa mattina invece voglio parlare proprio dei miei amici su Facebook, vi dico cosa penso dei miei amici su Facebook, ce ne ho talmente tanti. Quando cominciai a parlare di Facebook a questi microfoni la gente diceva basta, che è questa storia, si è ammalato, e adesso stanno tutti lì con i loro smartphone ogni giorno a dichiarare al mondo quella che è la loro equazione esistenziale, come Daniela, che scrive una poesia di Alda Merini. I fogli bianchi sono la dismisura dell'anima e io su questo sapore ero dolce, verrò un giorno morire perché il foglio bianco è violento. Avrà avuto problemi la mattina, avrà osservato il rotolo della carta igienica, avrà avuto probabilmente dei vuoti esistenziali. Ma perché l'ha scritto su Facebook questa frase? Qual è il senso? Qual è il messaggio trasversale? Milli Milena, voglio costruire la mia vita nel miglior modo possibile per poi rispecchiarmi e urlare al mondo io mi piaccio. Ma chi se ne può importare di questa signorina che dice che si piace? Poi c'è, andiamo avanti, gattini a iosa, tonnellate, gattini, micini, la mia amica Antonella si fa vedere con il suo orrendo barboncino ai suoi piedi, e Pennina e Mo, c'è questa cagnolina che la guarda, non so perché. Poi la stessa Antonella rimette la foto di Crudelia De Mon, perché evidentemente ha dei momenti di sconforto con la sua cara Pennina. Antonella Anita finge di credere alla bufola mediatica, per cui in un sito trash di pseudonotizia era uscita l'informazione che il ministro Chienge ha detto che voleva prendere cani e gatti degli italiani per darli da mangiare agli immigrati. Potete crederci, però Antonella questa mattina dice: prova a toccare il mio e uno qualunque che ti riempo la faccia di sberle fino a fartela cuocere, idiota. Ecco, difende il suo cagnolino di fronte al ministro, vuole darlo da mangiare agli immigrati. Vi sembra possibile? Ma la mattina di queste persone è stata così riempita. Serena, anche Serena, mette il suo cagnolino pulcioso dentro un bidet e dice, non c'è, che fa la faccia da cane bastonato, non si sa perché, non c'è bisogno di picchiarli in nessun caso, loro sanno benissimo cosa e se hanno fatto qualcosa che non andava. Guardate quando sono in due, quello che non ha fatto niente scodinzola tranquillo. Cioè il cane evidentemente ha fatto la cacca sul tappeto e quindi fa la faccia da cane bastonato. 800240024. Avete mai pensato, sarebbe bello dire ai vostri amici su Facebook esattamente quello che pensate di loro? Tipologie femminili su Facebook. La signorina Silvani riesce a simulare procacità allettanti con foto d'antan o particolari di scarpe con tacco, porzioni di abbronzatura, occhi bistrati, cerca diversivi al tedio impiegatizio. La fugace domestica, profilo imbandito con foto di lei mamma e angelo del focolare, solo per buttar fumo negli occhi. Sa bene come ci si organizza la fuga fingendo che sia colpa del destino. La depressa deprimente, solo foto che denunciano la sua assenza. Tramonti, gattini sperduti, scrivania piena di libri. Scrive frasi di status terminale da scongiuro. Vorrebbe essere amata. Io avevo osato qualche tempo fa di tracciare delle tipologie deleterie di persone che passano la loro esistenza su Facebook. Io pure passo la mia esistenza collegato perennemente ai social network, probabilmente faccio la stessa cosa, non sono diverso dal mio punto d'osservazione e dall'oggetto della mia osservazione. Però in questi giorni si parla molto del signor Antoine Garot di Rennes. È un signore che una mattina ha detto: io per 24 ore faccio esattamente quello che ha fatto questa mattina Melog, cioè dico quello che penso delle orribili e patetiche affermazione di esistenza dei miei amici su Facebook. Ha cominciato a dirlo tutte le mattine, quando metteva la foto una sua amica, tutti dicevano: bella, cara, bellissima, sei stupenda, questa felice della foto sarà fatta allo specchio con il suo smartphone, con il vestituccio sarà messo una serata di gala, e tutte le amiche dirgli: quanto sei bella, quanto sei bella. E gli ho detto: sei patetica, fai schifo, ma ti rendi conto, con la faccia flashata. Un'altra aveva messo la foto dei bambini dicendo: prendono solo gli omogenizzati alle prugne, non so, una cosa del genere. Ma cosa piffero me ne può importare di quello che prendono i tuoi figliolini su Facebook? Beh, questo gli è costato che la metà dei suoi amici, indignati, se ne sono andati, si sono cancellati. Marco, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire di Facebook che, diciamo, per quanto riguarda gli status, sono secondo me un modo per comunicare delle cose che uno non vuole dire direttamente alla persona. Allora dice, non so, ah, che ridere quelli che scrivono così, ah, ma vergognatevi, invece sta parlando direttamente a una persona. Quindi, no? È un grande strumento di acchiappo, uno c'ha una persona nell'occhio e gli dice. Anche per intuire quello che uno pensa sulle cose, uno è anche bravo a capire. Vorrei questa mattina sognare su una nuvola assieme a una donna con la gonna, ecco, pallini, sì, blu, sì, che è la sua vicina di scrivania. Anche meno esplicito. Anche più velato, però personalmente lo uso come strumento di informazione per condividere i link, ecco. Ma è utile, è divertente, poi si passa, cioè abbiamo un sacco di tempo, non sappiamo che piffero fare, e prima facciamo cose forse meno futili, adesso stiamo seduti, non ce la pigliamo troppo e giochiamo con Facebook. Giuliano, sì. Buongiorno, lei come la pensa? Sì, ma si può essere sinceri, diciamo, in questo grande strumento di espansione in cui abbiamo questa euforia della socialità diffusa, in cui tutti siamo tutto e potremmo essere qualsiasi cosa, lei può dire a un suo amico: il tuo cagnolino fa schifo, me lo metterei allo spiedo? Ma io considero Facebook una, diciamo, struttura avveniristica, ma che ha dei regolamenti medievali. Peraltro chi li ha stesi, cioè chi li ha elaborati, non conosce la semantica in italiano, tant'è vero, faccio un esempio, loro dicono quello che potresti conoscere, io ho consigliato, ma mettete il verbo, potresti aver conosciuto, perché non si spiega il fatto che uno possa avere 3, 4, 500, 1500 amici, quando poi il regolamento prevede che l'amico si presuppone che ci sia stata una conoscenza pregressa in base alla quale si può conoscere ulteriormente l'amico. Sì, ma lei spacca troppo il capello, è uno strumento che tende a distorcere e cambiare, mutare tutte le griglie tradizionali della conoscenza. Per noi conoscenza, noi vecchi uomini con i piedi appoggiati ancora nel primo dopoguerra, per noi la conoscenza era qualcosa di diretto, era qualcosa che ci impegnava. Adesso il conoscere è semplicemente alimentare una connessione, che poi è la stessa cosa. Scusa, faccio un altro esempio. Sì. Manca anche la comunicazione, cioè la feedback che loro ritengono che possa arrivare solo da una parte, cioè da noi verso loro, manca però da loro verso noi. Io ho provato molte volte a comunicare con loro, perché ad esempio inserivo quelli che sono i reperti archeologici o opere d'arte sia in Italia che all'estero, e ho messo anche dei piatti che sono nel museo di Atene, che sono piatti greci, che come lei mi insegna sono dei piatti che ovviamente... Cosa voleva sapere? E niente, mi hanno bloccato e non capisco la ragione per la quale lo hanno fatto, cioè non riesco a comunicare con loro, mentre loro comunicano, elaborano sentenze. Io lo so, lei adesso si è messo questo chiodo in testa che vuole stanare il signor Facebook, ma se sapesse esattamente quante centinaia e migliaia di persone ci stanno da quell'altra parte, abbandonerebbe il suo progetto. Rita, buongiorno. Rita. Pronto? Eccola. Rita si è autospenta, autosfumata, tagliata la gola, aveva la radio accesa, non so bene, ce l'aveva con i quarantenni su Facebook, che evidente, ultra quarantenni anzi, anch'io sono un ultra quarantenne, che parlano delle loro intimità, dove trovano il tempo. Se recuperiamo Rita, poi sentiamo esattamente quali saranno mai le intimità che sottopongono a questa candida signora che si trova molto... L'abbiamo ritrovata, Rita? No, allora sentiamo Andrea Rossetti. Andrea, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Perché da un paio di giorni si stanno tutti meravigliando che non si può essere sinceri sui social media? Juan Carlos De Martin questa mattina sulla Stampa dice che la grande ladra televisione, oggi si sono affiancate tante piccole ladre di tempo che sono i social media. Ci ruba il tempo, ma ci impedisce di essere sinceri. Ma abbiamo proprio tutta questa voglia, questo bisogno di essere sinceri nelle relazioni? Ma la domanda dovrebbe essere il contrario, in qualche modo siamo appunto in qualche condizione della nostra vita sinceri davvero fino in fondo, o meglio la domanda stessa ha senso, ma insomma, chiunque io credo abbia letto alle scuole superiori Pirandello dovrebbe ricordarsi che la domanda è un po' priva di significato, perché quando noi ci relazioniamo con gli altri necessariamente indossiamo una maschera, non è possibile non indossare una maschera, se vogliamo chiamare questa ipocrisia e dare una connotazione negativa possiamo anche farlo, però in realtà è l'unico modo in cui noi possiamo vivere in comunità, in società con gli altri. La verità non va sempre detta se io voglio mantenere rapporti con le altre persone. Quindi Andrea, scusami, fammi capire, in questo momento sono tutti grandi censori di tutto ciò che appare nello specchio riflesso della realtà. Puntiamo il dito e scopriamo l'acqua calda dicendo, vedi, se sei sincero e dici al tuo amico che fa schifo, dici alla tua amica che c'ha il culo basso e dici che il cagnolino che lei mette e idolatra su Facebook è una puzzolente e pulcioso animale che tu non vorresti aver vicino quando mangi, lei te lo impone sempre, questo è riprovevole, ma se lo facciamo nella vita succede un patatrac relazionale. È questo, provate a comportarvi in questa maniera nella vita di tutti i giorni, cioè andate a dire ai vostri amici, ai vostri vicini, ai vostri conoscenti le cose che pensate davvero di loro, che sentite semplicemente in quel momento, no? Perché a volte poi uno dice cose che gli passano per la mente in quel momento, semplicemente in quell'istante non le crede davvero. Ecco, provate ad andare in giro e vedete se l'effetto non sarà il medesimo che ha sortito l'esperimento del signore francese su Facebook. Mi scrive su un SMS un ascoltatore: mi è capitato di fare commenti sulle scelte politiche di una mia amica, questa si è arrabbiata da matti, dopo una discussione con messaggi privati mi ha tolto l'amicizia. Ecco, su Facebook si toglie l'amicizia e soprattutto non si può disquisire sulla politica, sulla scelta ideologica, che anche questa ha un livello di insincerità e di condivisione reale e concreta con ciò che si scrive, mi sembra piuttosto notevole. Ma sì, la politica penso che sia uno dei principali motivi per cui appunto le persone si tolgono l'amicizia su Facebook. Se uno prova a discutere di queste cose in rete si accorge che ben presto il discorso trascende. È un meccanismo però che è già stato studiato, no? La mancanza di contatto fisico, in qualche modo, la mancanza di fisicità porta a estremizzare le proprie posizioni in una discussione, è quasi inevitabile. Se si fosse probabilmente seduti intorno a un tavolo non ci si raggiungerebbe quel limite. In rete invece no. Bisogna rendersi conto che lo strumento rete è uno strumento molto potente, ma che le dinamiche di colloquio, di relazione non sono esattamente le stesse. Senti Andrea, devo fermare un attimo che devo dare la linea al traffico, poi intanto preparati, voglio domandarti sul poverino, il povero senatore Vito Crimi, che una volta tanto vuole essere Alvaro Vitali e ha giocato con Facebook. Melog, cronache meridiane. Tipologie maschili su Facebook. Lo spacciatore di immensità. Foto rigorosamente in bianco e nero. Riga di status copiata e incollata da frammenti di testi di alta letteratura o poesia, ovviamente mai letti, ricercati su Google. Il militante. Immagine elaborata come il manifesto di Obama, o tutto nero, rosso, bianco, viola, a seconda del momento. Segnala video di politici da cui dissente e cerca indignati. Il Provola, detto SWL, Serial Web Lover, va a caccia della donna digitalmente disagiata, mette foto solo in primo piano, con tagli significativi su occhiali scuri, dal vero è spesso impresentabile. Ecco, seguono le tipologie dei personaggi che si rappresentano sui social media. Non vorrei sembrare snob, mi scrivono, a me Facebook mette tristezza. Chi dice queste persone è già nato triste. In realtà è uno strumento di gran divertimento, di grande gioco. Certo, bisogna capire quando è il momento di giocare, capire qual è il proprio ruolo, capire soprattutto che non è un giocherello tra amici, ma è un giocherello pubblico. Per questo probabilmente una critica su Facebook offende molto più che una critica nel mondo concreto. Se ti dico, passando in un corridoio, guarda che ti puzzano le ascelle, meglio che ti lavi, ci rimani male, però mi togli il saluto, però non è così grave come se te lo scrivo su un profilo Facebook e lo leggono i 250.000 personaggi con cui tu fai il fighetto, tu ti mostri bello, affascinante, bel tenebroso, è molto diverso. E su questo doveva pensare probabilmente il senatore Vito Crimi, che oggi leggo che il presidente del Senato Pietro Grasso ha annunciato l'apertura di un'istruttoria contro Vito Crimi perché era scritto scritto su Facebook proprio in un momento delicatissimo, quando si era in giunta, si decideva del destino di Berlusconi, delle baggianate totali, facendo dei doppi sensi, non facendo ridere nessuno, sulla prostata, sul prolasso intestinale, sulla continenza e via dicendo. Ecco, dove ha sbagliato Crimi? Andrea Rossetti. È vittima della sua ideologia della trasparenza, secondo me, no? Questa idea che con la trasparenza si possa risolvere tutto. E sulla sincerità, poi. Sì, sì, è sul fatto che bisogna sempre dire la verità. Insomma, quello che dicevamo prima, non è così. Facebook è un luogo pubblico, è molto più pubblico che il bar con cui, vado la sera e parlo con i miei amici e racconto barzellette sconce. Breaking news. È stato appena nominato il premio Nobel per la fisica 2013, è stato assegnato a Peter Higgs e François Engler. Nei prossimi notiziari vi diremo chi sono e perché lo hanno vinto. Interessantissimo, allora Andrea Rossetti, riprendiamo il punto. No, dicevamo appunto che probabilmente il senatore è stato vittima della sua ideologia della trasparenza, no? Come se essere trasparenti e sempre la verità risolvesse ogni problema al mondo. Invece no, quando io sono in un social network mi devo rendere conto che dove parlo è un luogo pubblico, e soprattutto un luogo pubblico in cui restano le cose che dico. Appunto, non è semplicemente una voce che viene detta e nulla, ma le cose restano lì scritte per sempre potenzialmente. Bisogna avere consapevolezza del proprio ruolo in ogni momento, io credo, quando si è su Facebook. È un'idea, è una consapevolezza che anche noi abbiamo, io credo, col tempo semplicemente acquisito. Ma io è una grande, secondo me, una grande scuola di socialità. Certo, ha sbagliato, certo. Il senatore, capendo che, a parte non faccia ridere, avesse fatto ridere, ma scherzare sull'avanzata età di un collega parlamentare mi sembra ridicolo, sarebbe stupido, come dire, se vecchio ti ballano i denti, allora diventerai vecchio anche te. Sentiamo Attilio. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Sveglia Attilio, c'è poco tempo. Io sostengo un po' la sua tesi, mi sente? Sì. Ok, nel senso che Facebook sarà sicuramente una grande opportunità per le persone sole. Sì. Io, ovvero mio cognato, sono stato. Sua cognata sta sola? Mi manda centinaia di... Sua cognata, che vuole da lei sua cognata? Ma io sostengo proprio perché... Dico no, la fa troppo lunga Attilio, c'è poco tempo, mi piace. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, piacere di poter parlare con lei, prima di tutto. Sia veloce, perché purtroppo... Ho due attività, per me Facebook è solo un sistema per farmi della pubblicità. I fatti miei, figli, famiglia, li tengo assolutamente fuori. Mi fanno ridere le persone che pubblicano di tutto, da quando prendono il cappuccino, quando vanno in ferie, poi si stupiscono se si ritorcono tutte le loro idee contro di loro. Ma il loro brand è la loro vita triste quotidiana trasformata in un evento meraviglioso, anche loro fanno pubblicità. Io sono dell'idea che vedere Facebook come tanti giochini che ci sono sopra, un gioco, però esserne consapevole delle regole del gioco. Tutto quello che metti rimane per tutta la vita. In America, prima di essere assunto, uno dei requisiti che ti chiedono è le password di Facebook per vedere chi sei e cosa fai. Certo. Poi dopo il tuo datore di lavoro decide se è degno o no di quel posto di lavoro. E lo fanno anche in Italia, ma ancora non l'hanno capito. Lo so, però il problema è che tanti, soprattutto giovani, sono inconsapevoli del pericolo della rete. Io non sono spaventato, avremo un mondo in cui il concetto di privato, diciamo, andrà sovrascritto. Sì, basta, no Gianluca, cioè Roberto, se no purtroppo il tempo è poco. Roberto. Sì, buongiorno. Non dica banalità però. No, voglio parlare del mio caso personale. Un caso umano, me lo dica, sì. Io sono stato sempre contro Facebook, cioè mia moglie e amici lo adoperano e a me non mi è mai piaciuto. E perché non è mai stato contro il telefono? No, il telefono lo adopero quando ho bisogno e con le persone che sono interessato a parlare, come quelli che parlano con me, e perché hanno un ma se io fossi interessato alle 150.000 persone che mi piace seguire su Facebook, per assurdo, non ho diritto di poterlo fare. Chiunque ha diritto di fare quello che vuole. Io voglio parlare della mia persona, non degli altri. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Beh, lei è un astensionista. Quello che dico io è questo, cioè ci sono tante persone che hanno il mio numero di telefono, la mia mail per contattarmi. Una volta che io mi sono iscritto su Facebook, tutte queste persone che mai mi avevano chiamato o mai mi avevano fatto una mail sono piovuti tutti come amici. Cioè è una cosa, cioè è difficile interagire nel mondo reale, allora c'è tanta gente che lo trova più facile tramite il computer. Ma vabbè, questo fa parte, è l'equazione del tempo che stiamo vivendo. Ci stiamo abituando che in realtà quello che noi concepivamo soltanto un rapporto diretto, concreto, interpersonale, oggi è allargato a delle mediazioni fatte da macchine. Ringrazio l'ascoltore che mi scrive, il Nobel è certamente più interessante, le tue lucubrazioni deliranti, coglione che non sei altro. Questa è un'altra maniera per confrontarsi, per dire quello che si pensa in un luogo in cui è esattamente l'antesignano del social media, la radio è sempre stato il luogo in cui uno ha potuto dire ciò che si pensa. Nel nostro paese pensate che prima che esistesse la radio non era mai possibile che una persona potesse da casa partecipare a un programma, e oggi lo può fare, può dire il suo parere ha esatto dignità di esistenza come quello di chi conduce, di chi parla. Questo mi sembra un grandissimo passo avanti. Ringrazio, non l'ho mai fatto in questa sezione ma devo combattere con il tempo, Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, che sono sempre con me fino alla morte. A domani.